La sofferenza, prolungamento di un colpo morale subito, aspira a cambiar forma. Si spera di dissolverla facendo progetti, chiedendo informazione. Si vuole che passi attraverso le sue innumerevoli metamorfosi. Ci vuole meno coraggio che non a conservarla pura. Il letto sembra così stretto, così duro, così freddo quando ci si corica con il proprio dolore. Mi rimisi, dunque, in piedi. Mi muovevo nella stanza, con una prudenza infinita. Mi mettevo in modo da non scorgere la sedia di Albertin, la pianola sui cui pedali appoggiava le sue pianelle dorate, tutti gli oggetti di cui aveva fatto uso e che, nel linguaggio particolare insegnato loro dai miei ricordi, sembrava volessero darmi una traduzione, una versione diversa, annunciarmi una seconda volta la notizia della sua partenza. Ma pur non guardandoli, li vedevo. Le forze mi abbandonarono. Caddi a sedere in una di quelle poltrone di raso azzurro il cui luccichio m'aveva fatto fare un'ora prima, nel chiaroscuro della camera anestetizzata da un raggio di sole, dei sogni allora appassionatamente accarezzati, adesso così lontani da me. Ahimè, non mi ci ero ancora seduto prima di quell'istante, mai, se non quando c'era ancora Albertin. Dunque non potei resistere. Mi alzai. E così, di continuo, qualcuno degli innumerevoli e umili io che ci compongono era ancora all'oscuro della partenza di Albertin e bisognava notificargliela. Bisognava, ed era più crudele che se fossero stati degli estranei e non avessero preso in prestito per soffrire la mia sensibilità, annunciare la sventura appena occorsa a tutti quegli esseri, a tutti quegli io che ancora non lo sapevano. Bisognava che ciascuno di loro, arrivato il suo turno, sentisse per la prima volta quelle parole. Albertin ha chiesto i suoi bauli, quei bauli a forma di bara che avevo visto caricare a Balbec accanto a quelli di mia madre. Albertin se n'è andata. A ciascuno dovevo comunicare il mio dolore, dolore che non è affatto una conclusione pessimistica liberamente tratta da un insieme di circostanze funeste, ma la reviviscenza intermittente e involontaria di un'impressione specifica venuta dall'esterno e non scelta da noi. Di questi io, ce n'era qualcuno che non rivedevo da parecchio tempo. Per esempio, non m'era venuto in mente che era il giorno del parrucchiere, l'io che io ero quando mi facevo tagliare i capelli. Avevo dimenticato quell'io. La sua comparsa mi fece scoppiare in singhiozzi come, a un funerale, quella d'un vecchio servitore in pensione che ha conosciuto la defunta. Poi, di colpo, mi ricordai che da 8 giorni ero stato assalito a tratti da timori panici che non mi ero confessato. In quei momenti, peraltro, avevo discusso dicendomi «No, è inutile prendere in considerazione l'ipotesi della sua partenza improvvisa, è assurdo. Se l'avessi confidata a un uomo sensato e intelligente, e per tranquillizzarmi l'avrei fatto se la mia gelosia non m'avesse impedito di confidarmi, di sicuro m'avrebbe replicato «Ma voi siete pazzo, è impossibile!» E in effetti non avevamo avuto un solo litigio. Si va via per un motivo, lo si dice». Vi si dà il diritto di rispondere, non si va via in questo modo, no, è una cosa puerile, è l'unica ipotesi assurda. Eppure ogni giorno, ritrovandola lì il mattino quando suonavo, avevo tirato un immenso respiro di sollievo. E quando Françoise m'aveva consegnato la lettera di Albertin, immediatamente ero stato sicuro che si trattasse della cosa che non poteva essere, di quella partenza in qualche modo percepita con parecchi giorni d'anticipo, malgrado le ragioni logiche che mi rassicuravano. Me l'ero detto con una sorta di soddisfatta perspicacia, quasi nella mia disperazione, come un assassino che sa di non poter essere scoperto, ma ha paura. E all'improvviso vede il nome della sua vittima sulla copertina d'un fascicolo nell'ufficio del giudice istruttore che l'ha convocato. Tutta la mia speranza era che Albertin fosse partita per la Touraine, a casa di sua zia, dove tutto sommato era abbastanza sorvegliata e non avrebbe potuto fare granché prima che la riportasse indietro. Il mio peggior timore era che fosse rimasta a Parigi, andata ad Amsterdam o a Montjuvin, cioè che fosse scappata per dedicarsi a qualche tresca ai cui preliminari mi erano sfuggiti. Ma in realtà, dicendo Parigi, Amsterdam, Montjuvin, cioè diversi luoghi, pensavo a luoghi che erano solo possibili. Così, quando il portinaio di Albertine mi rispose che era andata in Touraine, questa residenza che avevo ritenuta preferibile mi parve la più terribile di tutte, perché era reale. E per la prima volta, torturato dalla certezza del presente e dall'incertezza del futuro, mi rappresentavo Albertine in atto di cominciare una vita che aveva voluto separata da me, forse per molto tempo, forse per sempre, e nella quale avrebbe realizzato quell'ignoto che così spesso allora, quando avevo però la fortuna di possedere, di accarezzare ciò che ne costituiva l'esterno, quel dolce viso impenetrabile e captato, m'aveva turbato. Era quell'ignoto a formare il fondo del mio amore. Davanti al portone di Albertine trovai una bambina povera che mi guardava con gli occhi spalancati e sembrava così buona che le chiesi se voleva venire con me, come avrei fatto con un cane dallo sguardo fedele. Ne parve contenta. A casa la cullai per un po' sulle mie ginocchia, ma ben presto la sua presenza, facendomi sentire troppo l'assenza di Albertine, mi divenne insopportabile e la pregai di andarsene, dopo averle dato un biglietto da 500 franchi. Eppure, subito dopo, il pensiero d'avere accanto a me qualche altra bambina, di non restare mai solo senza il soccorso d'una presenza innocente, fu la sola fantasia che mi permise di sopportare l'idea che Albertine, forse, sarebbe rimasta qualche tempo senza tornare. Per quanto riguarda Albertine, si può dire che esistesse in me solo nella forma del suo nome, il quale, eccettuato qualche attimo di tregua al momento del risveglio, mi si era scolpito nel cervello e non smetteva più di esserlo. Se avessi pensato ad alta voce, l'avrei ripetuto senza posa, e il mio sproloquio sarebbe stato altrettanto monotono, altrettanto limitato, che se mi fossi trasformato in uccello, un uccello simile a quello della favola, il cui grido ridiceva all'infinito il nome di colei che, uomo, aveva amata. Lo si dice, e quando si tace, sembra di scriverlo dentro di sé, che lasci la sua traccia nel cervello e che questo finirà con l'essere, come un muro su cui qualcuno si sia divertito a scarabocchiare con la matita, interamente ricoperto dal nome mille volte ripetuto della donna amata. Lo si scrive di continuo nel pensiero fin tanto che si è felici, ancora di più, quando si è infelici. E di ridire questo nome che non ci dà più niente ormai, che già non sappiamo, proviamo un bisogno incessantemente rinnovato, ma anche, alla lunga, stanchezza. Al piacere carnale in quel momento non ci pensavo nemmeno. Non vedevo nemmeno davanti al mio pensiero l'immagine di quell'Albertine, che pure era la causa d'un tale sconvolgimento del mio essere. Non scorgevo il suo corpo, e se avessi voluto isolare l'idea che era legata, perché ce n'è sempre qualcuna, alla mia sofferenza, questa sarebbe stata alternativamente, da un lato, il dubbio sullo stato d'animo in cui se n'era andata, con o senza intenzione di tornare, dall'altro, i mezzi per riportarla indietro. Forse c'è un simbolo e una verità nello spazio infimo riservato nella nostra ansia a colei che ne è la causa. Il fatto è che la sua stessa persona non c'entra che per poco. Per quasi tutto, invece, il processo di emozioni, di angosce che determinate combinazioni ci hanno fatto provare un tempo nei suoi confronti e che l'abitudine ha connesso a lei. A dimostrarlo, più ancora della noia che si accompagna alla felicità, è quanto il vedere o non vedere quella persona, l'esserne o non esserne stimati, l'averla o no a nostra disposizione. Ci sarà indifferente quando non dovremo più porci il problema, a tal punto ozioso che non ce lo porremo neanche più, se non in relazione alla persona in quanto tale, il processo di emozioni e di angosce essendo ormai obliato, almeno in rapporto a lei, perché potrebbe essersi sviluppato di nuovo, ma trasferito a un'altra. Prima, quando era ancora legato a lei, credevamo che la nostra felicità dipendesse dalla sua persona, dipendeva semplicemente dalla terminazione della nostra ansia. Il nostro inconscio era dunque, in quel momento, più chiaroveggente di noi, rendendo così piccola la figura della donna amata, figura che forse avevamo persino dimenticata, che potevamo conoscere male e credere mediocre, nel dramma spaventoso in cui dal ritrovarla per cessare d'attenderla poteva dipendere la nostra stessa vita. Proporzioni minuscole della figura della donna, effetto logico e necessario del modo in cui l'amore si sviluppa, chiara allegoria della natura soggettiva di tale amore. Lo stato d'animo in cui Albertine se n'era andata era probabilmente simile a quello delle nazioni che fanno preparare da una dimostrazione del loro esercito l'opera della loro diplomazia. Sicuramente se n'era andata solo per ottenere da me condizioni migliori, più libertà, più lusso. In questo caso a spuntarla fra noi due sarei stato io, se avessi avuto la forza d'aspettare il momento in cui lei, vedendo che non otteneva niente, sarebbe tornata di sua iniziativa. Ma se nei giochi di carte, in guerra, dove importa solo vincere, si può resistere al bluff, non uguali sono le condizioni create dall'amore e dalla gelosia, per non parlare della sofferenza. Se per aspettare, per tener duro, lasciavo che Albertine rimanesse lontana da me per parecchi giorni, distruggevo quello che era stato il mio scopo per più d'un anno, non lasciarla libera neppure un'ora. Tutte le mie preoccupazioni diventavano di colpo inutili se le lasciavo il tempo, la facilità di ingannarmi quanto avesse voluto, e se, alla fine, si fosse arresa, non avrei potuto dimenticare il tempo in cui sarebbe stata sola e, pur avendo infine la meglio, sarei stato ugualmente io, nel passato, cioè irreparabilmente, lo sconfitto. Quanto ai mezzi per riportare indietro Albertine, avevano tanto maggiore possibilità di riuscita quanto più plausibile fosse apparsa l'ipotesi che se ne fosse andata soltanto nella speranza d'essere richiamata a condizioni migliori. E certamente, agli occhi di chi non credeva alla sincerità di Albertine, Françoise, per esempio, questa ipotesi lo era. Ma per la mia ragione, a cui l'unica spiegazione di certi malumori, di certi atteggiamenti era parso, prima che ne sapessi nulla, un suo progetto di partenza definitiva, era difficile credere, ora che tale partenza s'era verificata, che si trattasse d'una semplice simulazione. Dico per la mia ragione, non per me. L'ipotesi della simulazione mi diventava tanto più necessaria quanto più era improbabile e guadagnava in forza quel che perdeva in verosimiglianza. Quando ci si vede sull'orlo dell'abisso e sembra che Dio ci abbia abbandonati, non si esita più ad aspettarsi da Lui un miracolo. Ammetto d'essere stato in tutto questo il più doloroso ma anche il più apatico dei poliziotti. Ma la sua fuga non m'aveva restituito le qualità che l'abitudine di farla sorvegliare da altri mi aveva tolte. Non pensavo che a una cosa, affidare a un altro l'incarico di quella ricerca. L'altro fu Saint-Lou che acconsentì. L'ansia di tanti giorni messa nelle mani d'un altro mi diede gioia e, sicuro del successo, mi fregai le mani ridiventate improvvisamente asciutte come prima, senza più quel sudore di cui Françoise m'aveva inzuppato dicendomi «Mademoiselle Albertine se n'è andata». Si ricorderà che quando avevo deciso di vivere con Albertine e persino di sposarla, era stato per custodirla, sapere quel che faceva, impedirle di riprendere le sue abitudini con Mademoiselle Vinteuil. Era stato a Balbec, nello strazio atroce della sua rivelazione, quando mi aveva detto come una cosa affatto naturale e che io, sebbene fosse la più grande sofferenza mai provata fino allora nella mia vita, riuscii a far credere di trovare affatto naturale la cosa che mai, nelle mie peggiori supposizioni, avrei avuto l'audacia di immaginare. È sorprendente come la gelosia, che passa il proprio tempo a fare piccole supposizioni nel falso, abbia poca immaginazione quando si tratta di scoprire il vero. Ora, questo amore, nato soprattutto da un bisogno di impedire ad Albertin di fare il male, questo amore, aveva conservato nel tempo la traccia della sua origine. Essere con lei mi importava poco. Bastava che io potessi impedire a quell'essere in fuga d'andare qui o là. Per impedirglielo, m'ero affidato agli occhi, alla compagnia di chi usciva con lei, e bastava che costoro mi facessero, la sera, un buon rapportino debitamente rassicurante perché le mie inquietudini svaporassero in buon umore.